notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Prosegue l'avanzata degli jihadisti in Siria, conquistata Palmira. Il califfato ha in mano il valico di confine tra il paese e l'Iraq. Al-Qaeda controlla un ex ospedale, si teme una strage. È in corso l'udienza per la convalida del fermo dell'uomo arrestato con l'accusa di essere un terrorista. Si aggiungono nuovi dubbi alla ricostruzione iniziale. Perché sono in cella? Non ho fatto nulla, dice lui. A Genova un carabiniere è stato ferito con un cacciavite durante un controllo, l'autore sarebbe un senegalese, ora in manette. Salvini attacca, venga espulso subito dall'Italia. Irlanda al voto nel referendum sui matrimoni gay, la maggioranza sarebbe per il sì, poco più di 20 anni fa l'omosessualità era reato e il divorzio illegale. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura e come sempre effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e poi gli sms durante la diretta, il 349-238-6666. In apertura torniamo a parlare dell'avanzata di ISIS in Siria. Il califfato si allarga. Dopo Ramadi in Iraq e dopo la città siriana di Palmira, i miliziani di Abu Bakr al-Baghdadi hanno preso il controllo anche dell'ultimo valico di confine tra Siria ed Iraq, ancora in mano alle forze governative di Damasco. Lo ha riferito l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani proprio all'indomani della conquista di Palmira da parte dei miliziani, che sono arrivati così a controllare metà del territorio siriano. Sul web, un video diffuso dai jihadisti mostra la decapitazione di soldati e miliziani governativi a Palmira, mentre l'aviazione governativa siriana ha bombardato il centro moderno della città e i combattimenti avrebbero già provocato danni anche nell'area archeologica. Ma Palmira, nota soprattutto per le rovine considerate patrimonio dell'umanità, è un luogo simbolico perché lì si trova anche la prigione di Tadmur, costruita nel deserto e dove Bashar al-Assad ha segregato e fatto morire i suoi oppositori. Così ora, agli occhi di molti siriani, l'ISIS ha il merito di aver liberato un simbolo dell'oppressione. Vicino a Palmira poi ci sono giacimenti di gas da sfruttare economicamente, come i jihadisti hanno già fatto col petrolio e con i reperti archeologici che vendono agli antiquari di tutto il mondo. Preoccupati gli Stati Uniti, mentre il presidente francese Hollande ribadisce che è necessario intervenire e chiede di agire per difendere il patrimonio culturale dell'umanità. Anche il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Federica Mogherini, si è detta preoccupata per il rischio di nuovi crimini di guerra dello Stato Islamico. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono di poco fa le parole del ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che esprime preoccupazione per quello che succede in Siria, ma anche per la forse ancora più minacciosa situazione in Iraq, aggiunge che sarà fondamentale una verifica della strategia che portiamo avanti. E sempre dal lato della cronaca arriva un'altra notizia: miliziani qaedisti del fronte al-Nusra e di altre formazioni islamiche hanno conquistato un ospedale trasformato in caserma nel nord-ovest della Siria, dove erano assediati da settimane circa 200 militari governativi. Questo è quello che riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, che è una ONG. Non si conosce la sorte dei soldati e si teme che vi sia stata una strage. E c'è una storia che, come sapete, in queste ore intreccia il tema del terrorismo jihadista e quello che potrebbe essere un clamoroso errore: la vicenda del cittadino marocchino arrestato nella convinzione che fosse uno degli autori della strage al Museo del Bardo. Il punto oggi con Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa, buongiorno. Buongiorno Simone, un saluto agli ascoltatori. È in corso dalle 11:45 circa di questa mattina l'udienza di convalida dell'arresto nel carcere milanese di San Vittore. Abdelmajid Touil, 22 anni, marocchino, è stato arrestato, come dicevi Simone, 3 giorni fa a Milano su mandato di cattura internazionale emesso dalla Tunisia per la strage nel Museo del Bardo, la strage del 18 marzo scorso in cui, lo ricordiamo, persero la vita 24 stranieri, tra cui 4 italiani. L'udienza di convalida del fermo si tiene davanti al giudice della quinta sezione penale della Corte d'Appello di Milano, giudice competente per le estradizioni. Identificazione e consenso alla consegna alla Tunisia costituiscono il primo passo tecnico del procedimento di estradizione, procedimento che comunque avrà tempi abbastanza lunghi. Infatti, nel merito dell'estradizione si dovrà entrare solo in un secondo secondo momento in un'altra udienza che verrà fissata. La convalida dell'arresto rappresenta in realtà un passaggio puramente formale, appunto il merito è successivo. Il consenso alla consegna alla Tunisia, questo è certo, dal giovane non arriverà. Da 3 giorni infatti Twil, che si trova in isolamento nel carcere di San Vittore, chiede perché si trovi lì. Non capisco, non ho fatto nulla, avrebbe ripetuto più volte a chi ha potuto incontrarlo. Gli inquirenti milanesi stanno verificando se effettivamente possa aver avuto un ruolo nell'attentato, perché nel giorno della strage e in quelli precedenti e successivi il giovane risultava trovarsi a Milano. Come emerso dai registri della scuola, infatti frequentava regolarmente l'istituto Franceschi di Trezzano sul Naviglio, dove studia italiano. Questo quindi escluderebbe perlomeno un suo ruolo come esecutore materiale. Altri ruoli o complicità restano ovviamente tutte da verificare. Simone. E grazie Maria Luisa Pezzali per questo aggiornamento. Una vicenda che ha suscitato molte polemiche politiche, come sapete. Ce n'è un'altra che le sta già facendo montare in queste ore, è la vicenda di un cittadino senegalese che ha colpito con un cacciavite durante un controllo un maresciallo dei carabinieri. Questo maresciallo dei carabinieri è grave in ospedale a Genova, ci torneremo tra un attimo. Intanto andiamo al vertice europeo di Riga, dove resta al centro la vicenda della Grecia. Vittorio Darold, qual è il punto di oggi? Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Sì, il punto è che Merkel ha detto, dopo questa riunione che si è chiusa a 3 con Hollande e con Alexis Tsipras, il premier greco, finito all'1:30 di notte, che c'è ancora molto da fare e che l'accordo deve essere preso con i creditori, quindi con la UE, il Fondo Monetario, la BCE, quindi non una questione tra Germania, Francia e Grecia, ma deve essere riportata nell'alveo delle istituzioni europee. Questo perché? Perché probabilmente siamo vicini a sì qualche spiraglio, soprattutto sul fronte dell'accordo sull'IVA, quindi un aumento dell'IVA soprattutto per una questione di regolamento speciale per le isole greche. E in cambio ci potrebbe essere appunto una tranche di questi aiuti, che sono complessivamente di 7 miliardi. Ipotesi quindi ancora una volta forse di un accordo ponte, che permetterà di affrontare quel famoso pagamento del 5 giugno di 300 milioni che la Grecia deve pagare al Fondo Monetario, ma che non ha appunto fondi a sufficienza. Sullo sfondo sempre il problema delle riforme su il lavoro, quindi il salario minimo che Atene vuole aumentare a 751 euro, e ancora i nuovi tagli alle pensioni e a una riorganizzazione complessiva del sistema previdenziale. Questi sono ancora punti su cui lo stesso Hollande ha detto che Atene deve dare più informazioni per permettere ai creditori di trovare appunto questa soluzione. Una soluzione che per il momento non è ancora all'orizzonte. Sulla Grecia è tutta, a te Simone. Grazie Vittorio Darold per questi aggiornamenti ormai quotidiani sulla vicenda della Grecia. Restiamo in tema di conti pubblici, ma passiamo a parlare di quelli italiani, perché oggi c'è stata una presa di posizione del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, ancora sul tema della sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, piuttosto dura. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, nuova puntata del capitolo previdenza, protagonista, lo dicevi, il ministro dell'economia Padoan. La Consulta non ha valutato il buco creato sulle pensioni, dice senza filtri il responsabile del Tesoro, massimo rispetto per l'autonomia della Corte, dice ancora Padoan, ma spero che in futuro l'interazione con governo e avvocatura sia più fruttuosa quando ci sono implicazioni per la finanza pubblica. Parole queste del ministro corrette di fatto poi dallo stesso presidente del Consiglio Renzi, che dice: abbiamo rispettato la sentenza della Corte Costituzionale e ora si tratta di lavorare insieme perché i segnali di ripresa che ci sono possano irrobustirsi. Da ricordare che ieri sul tema era intervenuto lo stesso presidente della Consulta Criscuolo, che alle accuse di aver messo nei guai il governo con la sentenza sull'indicizzazione aveva replicato: se una legge è incostituzionale non possiamo fermarci se la nostra decisione provoca delle spese. Infine, Simone, alcuni numeri sulla riforma Fornero diffusi oggi dall'INPS: dimezzate in 4 anni le pensioni di anzianità, sono poi 230.000 le persone in pensione da oltre 35 anni. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta entra in piena campagna elettorale, visto che siamo sui temi politici, in piena campagna elettorale per le regionali, la vicenda di cronaca che arriva da Genova. Ci colleghiamo con Andrea Ferro che ce la racconta. Andrea, buongiorno. Buongiorno Simone, è successo poco prima delle 8 di stamane nei pressi della stazione marittima e della stazione ferroviaria di Principe. Una pattuglia dei carabinieri ha notato i due senegalesi che si aggiravano con fare sospetto nei pressi delle auto in sosta. Li hanno fermati per identificarli. A quel punto uno dei due ha estratto un coltello dal giubbotto e ha colpito al torace il capo pattuglia, un maresciallo. L'altro militare ha cercato di disarmare il senegalese che, aiutato dal complice, è riuscito a fuggire. Nella colluttazione anche il secondo militare è rimasto lievemente ferito. Quindi la fuga dei due extracomunitari, che però è durata poche centinaia di metri. A bloccarli ed allertarli sono stati alcuni agenti diretti alla stazione marittima, dove stamattina era in programma la cerimonia per la festa della polizia. Il senegalese che ha sferrato il colpo di cacciavite è accusato di tentato omicidio. Il maresciallo in forza alla stazione San Teodoro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Galliera. Inizialmente le sue condizioni erano parse gravi, poi nel corso della mattinata sono migliorate. Ora il sottufficiale è fuori pericolo. L'episodio di stamattina, come dicevi, ha avuto subito riflessi politici. A Genova e in Liguria infatti siamo in piena campagna elettorale per le regionali. Da Roma il leader della Lega Matteo Salvini ha detto l'extracomunitario venga subito rimandato al suo paese. Sul luogo dell'aggressione poco fa è giunto il candidato del centrodestra Giovanni Toti e al maresciallo ferito è giunto il messaggio di solidarietà da parte del ministro dell'interno Alfano. Da Genova è tutto, Simone, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro. Altro punto sulle regionali, sulle altre regionali, con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno Simone, scusate, c'era un problema tecnico. Campagna elettorale nel vivo per Silvio Berlusconi, oggi in comizio a Napoli per il governatore uscente Stefano Caldoro, definito dall'ex cavaliere un esempio di buona amministrazione. Berlusconi continua ad attaccare la legge Severino e definisce un sacrilegio l'applicazione retroattiva. Sul fronte politico però dice no alle primarie del centrodestra perché sarebbero manipolabili, ma poi annuncia che il suo successore sarà scelto dal popolo. Il Movimento 5 Stelle invece contesta le aperture del premier Matteo Renzi sulla scuola e le definisce un bluff elettorale ad una settimana dalle regionali. Sul reddito di cittadinanza, tanto caro ai grillini, c'è invece l'apertura della minoranza Dem che aderisce alla proposta di Libera con SEL e Movimento 5 Stelle. Roberto Speranza si dice disponibile ad un reddito minimo per dare sostegno alle fasce più deboli, ma bisogna abbassare le bandierine di parte. La Lega continua invece, come abbiamo sentito, la battaglia contro l'immigrazione illegale e Matteo Salvini denuncia il ferimento del carabiniere a Genova e dice il senegalese deve essere espulso. Fratelli d'Italia insorge infine contro la decisione della provincia di Bolzano di esporre il tricolore a mezz'asta per i 100 anni della Grande Guerra. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e sui 100 anni dell'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra torneremo tra poco. Intanto ci spostiamo all'estero, dove in un posto dove si vota, in realtà si sta già votando oggi, ma per tutt'altro motivo, il referendum irlandese sui matrimoni gay. Ci aggiorna Michele Pignatelli, che è in studio con noi del Sole 24 Ore. Michele, buongiorno. Buongiorno Simone agli ascoltatori. Sì, è un voto storico per almeno due motivi, quello che è in corso dalle 7 di stamattina in Irlanda. Storico in generale perché è la prima volta che un paese decide su un tema come le nozze omosessuali con un voto popolare. Altrove è stato deciso dai parlamenti, è stato deciso a volte dalle corti americane per esempio, ma è la prima volta che il popolo viene chiamato a scegliere, ed è il popolo irlandese. Quindi stiamo parlando di quella che il termine è un pochino abusato, l'abbiamo detto, veniva definita la cattolicissima Irlanda, quindi un paese con un retroterra sociale e culturale abbastanza conservatore, come tra l'altro è confermato dal fatto che fino al 93 l'omosessualità era un reato. Nel 95 soltanto il divorzio è stato legalizzato, tra l'altro con un voto di misura, e l'aborto è ancora illegale tranne nei casi gravi, quindi di rischio di vita per la donna. Sembra, Michele, che possa vincere il sì, però. Sembra che possa vincere il sì perché c'è stata, intanto perché la società irlandese è molto cambiata, sta cambiando negli ultimi anni, la Chiesa ha perso la parte più conservatrice della Chiesa, ha perso appeal, anche perché ci sono stati molti scandali di pedofilia, come si sa, e poi perché c'è stata una forte mobilitazione del fronte del sì, anche esponenti del mondo della musica, Bono, degli U2, del mondo del cinema come Colin Farrell, e poi anche il mondo imprenditoriale, le multinazionali che hanno molti giovani alle loro dipendenze, quindi sì, è dato in vantaggio nei sondaggi. Questo non significa però che i risultati si avvereranno. L'Irlanda già un paio di volte ha dimostrato, proprio l'ultimo caso su un referendum nel 2013, era un referendum per abolire il Senato, di smentire clamorosamente le previsioni. E del resto abbiamo visto con le ultime elezioni inglesi quanto i sondaggi siano facili da smentire. Grazie nel frattempo a Michele Pignatelli del Sole 24 Ore. Adesso sentiamo che cosa succede sulle strade, poi ci ritroveremo tra un attimo. Parleremo tra l'altro con il segretario generale della FIM CISL Marco Bentivogli, in queste ore a Caserta, dove nello stabilimento della Whirlpool si sta protestando contro l'ipotesi di chiusura e viene annunciato uno sciopero generale di tutto il gruppo. Ne parleremo tra poco e parleremo anche del DDL anticorruzione. A tra un attimo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Prosegue l'avanzata degli jihadisti in Siria, conquistata Palmira, il califfato in mano, il valico di confine tra il paese e l'Iraq. La preoccupazione del ministro degli esteri Gentiloni, che dice dovremmo rivedere la strategia. Torneremo a parlarne più avanti nella seconda parte della trasmissione. In corso l'udienza per la convalida del fermo dell'uomo arrestato con l'accusa di essere un terrorista. Si aggiungono nuovi dubbi alla ricostruzione iniziale. A Genova un carabiniere è stato ferito con un cacciavite durante un controllo, l'autore sarebbe un senegalese ora arrestato. Salvini attacca, venga espulso subito dall'Italia. Irlanda al voto, come avete sentito, nel referendum sui matrimoni gay la maggioranza sarebbe per il sì. Marco Bentivogli, segretario generale della FIM CISL, il sindacato dei metalmeccanici della CISL, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Se ho capito bene, lei si trova a Caserta, dove si sta svolgendo questo sciopero dello stabilimento della Whirlpool, che secondo il piano industriale dell'azienda è destinato alla chiusura. Sì, oggi in realtà lo sciopero generale ha riguardato tutta l'industria casertana, perché qui tutti i settori industriali sono scoperchiati. Avanza una pericolosa desertificazione industriale in un territorio già colpito dall'inquinamento e dalla camorra, a cui rischia di essere riconsegnata popolazione e territorio che l'industria ha sempre cercato di preservare. E per questo abbiamo proclamato uno sciopero importante. Oggi la Caserta è stata invasa letteralmente dai lavoratori. Il 12 giugno saremo a Varese, dove ha sede la multinazionale Whirlpool Italia, per gridare forte che quei 2060 licenziamenti vanno ritirati e con esse la chiusura degli stabilimenti. Sono, tra l'altro avete proclamato per quella giornata 8 ore di sciopero generale di tutto il gruppo Whirlpool e poi la manifestazione a Varese dove ha sede il gruppo. Vorrei capire questo, Bentivogli, abbiamo visto che nelle ultime ore la situazione è peggiorata, nel senso che il numero di esuberi annunciato dall'azienda è aumentato. Le chiedo, ha dato qualche spiegazione l'azienda? Vi ha detto perché la decisione è stata questa? Ma il comportamento di Whirlpool è non solo incomprensibile, ma gravemente irresponsabile. I negoziati si aprono e si cerca di andare a marcia avanti verso convergenze che portino agli accordi. Whirlpool è andata avanti con la retromarcia, aumentando i licenziamenti da 1.350 a 2.060 e aumentando da 3 a 4 le fabbriche da chiudere. Questo è assolutamente, oltre che una provocazione, un atto inaccettabile. Ricordo a tutti che Whirlpool ha utilizzato finanziamenti pubblici e il rischio più grosso è che si utilizzino i soldi dei contribuenti per lasciare a casa le persone. Questo è intollerabile. Mi spieghi una cosa, il 12 giugno farete sciopero generale, ma nel frattempo è previsto un altro incontro al Ministero con l'azienda oppure no, di qui al 12? Ma il governo, devo dire, è stato chiaro, ha detto al vertice dell'azienda aspettiamo nelle prossime ore buone notizie e cambi di rotta, appena arriveranno queste notizie riconvochiamo le parti. Ecco, voglio su questo ricordare che anche il Presidente del Consiglio, che oggi era in campagna elettorale a pochi chilometri da Caserta, forse dovrebbe lanciare un segnale di sostegno forte a questa Italia, quest'Italia veramente ferita dalla crisi, con cui bisogna stare a fianco, insomma. Senta Bentivogli, voglio capire questo: al di là degli incontri con il governo, c'è un minimo di interlocuzione con l'azienda o in questo momento la rottura è completa, cioè non ci parlate proprio? Ma l'interlocuzione è sempre possibile, il problema è che questa azienda basa il rapporto con il sindacato su infingimenti. Io personalmente faccio trattative da 20 anni e sono abituato a giocare con le carte scoperte. Questa azienda non solo le tiene coperte, ma man mano che le scopre sempre più digeribili e inaccettabili. Però ha presentato anche un discreto piano di investimenti per il paese, no? Sì, in realtà se mettiamo in conto quello che sarà l'utilizzo della cassa integrazione per 3 anni, degli ammortizzatori sociali e di tutto il resto, rischiamo di pareggiare i 500 milioni con costi sociali e costi sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali che rischiano di essere più ampi. Noi pensiamo che sia importante investire sul bianco in Italia, ma non può essere che un lavoratore su 3 di Whirlpool resti a casa. Questo è un fatto grave. Lo dico in particolare per Carinaro. Carinaro ha 815 lavoratori in un'area che 20 anni fa occupava 6.500 lavoratori sull'elettrodomestico. Rispetto alla prospettiva del bianco, qualche cosa anche il governo dovrebbe immaginare in termini di politica industriale. La ringrazio, grazie a Marco Bentivogli, segretario generale della FIM CISL. Ci chiede qualche ascoltatore di invitare anche la Whirlpool a parlare. Guardate, lo faremo sicuramente, nessun problema. Vogliamo anche capire effettivamente perché si vada a chiudere proprio lo stabilimento di Caserta. Qualcuno dice, qualche ascoltatore scrive, dice: io a Caserta non ci investirei mai. Vediamo, insomma, magari invece uno stabilimento che funziona benissimo. Questo non lo sappiamo esattamente, lo chiederemo all'azienda quando avremo occasione di parlarci. Ci occupiamo adesso di mafia, o meglio di un PM di Palermo, Nino Di Matteo, il PM del processo sulla trattativa, minacciato più volte dal capo di Cosa Nostra Totò Riina, contro di lui la mafia aveva preparato un attentato. Intervistato da Raffaella Calandra per la sua trasmissione Storiacce, intervista che andrà in onda integralmente alle 21.30 di sabato, dice: a volte ho pensato anche di lasciare la toga, ma alla fine prevale la passione, non nego la paura. Tutto questo alla vigilia delle commemorazioni del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Di Matteo parla anche di questo in questa intervista, sentiamo. Certamente posso solo dire che non è una situazione facile. È indubbio che quello che è stato rappresentato da collaboratori di giustizia è un piano purtroppo avanzato di preparazione dell'attentato, e che le parole intercettate non sono le parole di uno qualsiasi, ma di quello che la storia lo dimostra, è stato lo stragista più violento e spietato. Amaramente rifletto che se oggi accadesse qualcosa, quelle parole intercettate costituirebbero, diciamo, un elemento di prova decisivo a suo carico. Sappiamo anche della recente bocciatura di Palazzo dei Marescialli alla sua domanda per la Procura Nazionale Antimafia. Queste vicende personali aumentano l'isolamento di magistrati esposti e sotto minaccia come lei? Io credo che l'eccessivo peso delle correnti nell'autogoverno della magistratura, così come calcoli di opportunismo o di opportunità politica nelle scelte dell'autogoverno, finiscano per limitare l'autonomia di ogni singolo magistrato. Vede, ci sono molti magistrati che giustamente non sono legati a nessun partito o corrente politica, che non si vogliono iscrivere alle correnti della magistratura, che vogliono essere veramente autonomi e indipendenti, che oggi sono scoraggiati perché sono consapevoli che il mancato inserimento nel sistema, anche nel sistema correntizio, li potrà pregiudicare anche nella carriera. E questo è un fenomeno sempre più diffuso che, a mio avviso, deve essere denunciato e contrastato. È stata approvata ieri la nuova legge contro la corruzione, è arrivato in sì definitivo della Camera al disegno di legge. Renzi dice: una pagina importante, prima impensabile. Tra le altre cose sono previsti degli aumenti delle pene e viene ripristinato il reato di falso in bilancio. Su questo si è appuntato qualche dubbio espresso oggi dal Sole 24 Ore in un editoriale firmato da Salvatore Padula, non tanto sul ripristino del reato laureato. Salvatore è in linea con noi, buongiorno, vice direttore buongiorno. Del Sole 24 Ore. Buongiorno, ciao Simone. Quanto, come dire, sui margini di interpretabilità di quello che è contenuto in questo provvedimento? Sì, fammi fare una piccola premessa. È fuori discussione che una riforma dell'attuale normativa del falso in bilancio... Perdonami Salvatore, ti interrompo perché abbiamo un pessimo audio in questo momento con te e adesso proviamo a vedere se riusciamo a ripristinare il collegamento in maniera che riusciamo a fare il ragionamento bene, farlo sentire agli ascoltatori, far sapere esattamente che cosa pensi e fare l'ovvia premessa. Riusciamo a recuperare Padula, chiedo a Laura Faggin, abbiamo qualche problema? Vediamo, ci siamo? Dobbiamo attendere. E via. Allora, abbiamo Salvatore Padula di nuovo in linea con noi, vice direttore del Sole 24 Ore, sperando che adesso la linea funzioni meglio. Allora, qual era la premessa? No, dunque, la premessa è che è evidente che una riforma dell'attuale, diciamo, assetto del falso in bilancio, del reato di false comunicazioni sociali era necessario, no? L'attuale assetto deriva dalla riforma approvata nel 2002, insomma, governo Berlusconi, molte polemiche, era stato introdotto un meccanismo che insomma, di fatto finiva un po' per trasmettere l'idea di una sorta di impunità verso questa tipologia di reati, no? C'era un sistema a soglie per cui il reato non scattava mai in determinate situazioni e comunque non scattava quando la variazione dell'utile non risultava superiore a determinati parametri. Oggi, diciamo, con la riforma approvata ieri invece si cambia completamente approccio, possiamo, come molti anche noi insomma hanno titolato, torna di fatto un reato che era stato, diciamo, di fatto cancellato, e quindi questo è sicuramente una cosa che era necessaria, no? Era un segnale, insomma tutti ne sono convinti che questo fosse necessario. Ciò detto, diciamo, fatta questa premessa che è fondamentale, anche, diciamo, come poi valutazione della riforma, è evidente che, insomma, le scelte poi fatte tecnicamente sembrano lasciare aperto qualche dubbio, perché nella formulazione della norma, così come la norma è stata scritta, insomma, sarebbe probabilmente stata preferibile una maggiore chiarezza, no? Finalizzata a trasmettere in modo più chiaro che cosa, quali sono i comportamenti e i fatti e i documenti, le comunicazioni laddove, insomma, un'alterazione dei numeri diventa effettivamente una falsificazione dei bilanci, e invece dove questa cosa non succede. La sensazione, secondo molti diciamo, operatori osservatori, è che questa tipologia di riforma lasci un po' troppi i margini un po' ampi di interpretazione e di discrezionalità da parte dei giudici, andando un pochino come dire, a togliere quegli elementi di certezza del diritto che invece sono importanti, fondamentali per gli operatori, per le imprese, per i professionisti, eccetera. Questa, diciamo, è un po' questa è la criticità che tu intravedi. Complessivamente il provvedimento, in 30 secondi, ti sembra un buon provvedimento? Ma teniamo presente che il provvedimento sul falso in bilancio è inserito in un provvedimento molto più ampio che riguarda la corruzione. È un provvedimento importante, sappiamo che, insomma, la lotta alla corruzione non si fa semplicemente con il codice penale, ma che, insomma, serve anche servono controlli, serve anche un cambio culturale. Secondo me è un passo che va nella direzione giusta, è un passo importante. Sulla corruzione le pene sono state aumentate in modo consistente e quindi c'è un effetto, diciamo, indotto. L'aumento delle pene porta anche all'aumento dei tempi di prescrizione, quindi renderà probabilmente più facile perseguire questa tipologia di reati. Grazie a Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, al quale auguro buona giornata. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa e poi parleremo con un esperto dell'ISPI su quello che sta succedendo in Siria ed Iraq e torneremo sul grande tema sollevato anche oggi dal ministro degli esteri Gentiloni su cosa si sia sbagliato nella strategia per quanto riguarda Siria ed Iraq, non solo da parte di tutto il mondo occidentale ma in particolare da parte degli americani. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Prosegue l'avanzata degli jihadisti in Siria, conquistata Palmira e Califfato in mano al valico di confine tra il paese e l'Iraq. È in corso l'udienza per la convalida del fermo dell'uomo arrestato con l'accusa di essere un terrorista. Si aggiungono nuovi dubbi alla ricostruzione iniziale. A Genova un carabiniere ferito con un cacciavite durante un controllo. L'autore sarebbe un senegalese, ora arrestato. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Paolo Maggiolini è un ricercatore dell'ISPI, esperto in Siria e di Iraq. Maggiolini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, stiamo qua ovviamente a parlare dell'avanzata di ISIS. Abbiamo oggi il ministro degli esteri Gentiloni che dice: sarà fondamentale una verifica della strategia, linguaggio diplomatico per dire che la strategia finora è stata sbagliata o non ha funzionato. Che cos'è che non ha funzionato? Ah, principalmente il problema attuale, almeno quello che viene messo in luce dalle recenti conquiste, sia nel contesto siriano a Palmira, sia in quello iracheno a Ramadi, è obiettivamente una questione sia di ordine militare, sia però molto di più dal punto di vista politico, per questioni diverse. Nel contesto iracheno la questione che si pone è l'incapacità obiettivamente del governo centrale di portare avanti la cosiddetta riconquista e la difficoltà di coordinare da una parte la presenza delle milizie sciite e dall'altra parte di riaggregare la dimensione sunnita tribale, dei fraintendimenti, una incapacità di coordinamento anche all'interno delle differenti dimensioni, sia sunnita che sciita. Nel contesto siriano il problema permane generalmente di che cosa effettivamente la comunità internazionale vuole fare della Siria, che ormai sono più di 4 anni, quale potrebbe essere la soluzione politica, e questo nel contesto di Palmira complica, perché effettivamente i due contendenti in campo erano da una parte Assad e dall'altra parte ISIS, e quindi è molto difficile per la comunità internazionale in questo caso inserirsi da parte, in che modo. E quindi quello che effettivamente ora sembra sempre più all'ordine del giorno è riuscire a trovare effettivamente un coordinamento tra le necessità militari e quello politico. E intravede questa possibilità in 20 secondi, Maggiolini? Obiettivamente la situazione non è semplice, perché i due fronti sono uniti dal punto di vista militare e da parte di un'organizzazione che gioca operazioni in entrambi i campi, però le soluzioni politiche non sono simili, seppur i problemi in campo possono rassomigliare. È difficile nel breve periodo e ci vorrà probabilmente una grande capacità dal punto di vista di segnalare le priorità. Sicuramente nel contesto iracheno potrebbe esserci, sono maggiori i margini. La ringrazio, grazie a Paolo Maggiolini, ricercatore dell'ISPI, esperto in Siria e di Iraq. Domenica fanno 100 anni l'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra. Le nostre montagne, specialmente le Dolomiti, sono una specie di museo sulla Prima Guerra Mondiale, perché le trincee ci sono ancora. È passato un secolo, ma la Prima Guerra Mondiale è ancora parte della storia del nostro paese. Lo è nei luoghi, come ci ha ricordato il grande Reinhold Messner, nelle montagne, nella disfatta di Caporetto, nella resistenza sul Monte Grappa e lungo il fiume Piave, nella conquista di Trento e Trieste. Ma la memoria sopravvive anche negli oggetti: medaglie, fotografie, diari, lettere, cartoline, nei cassetti e nelle soffitte di ogni famiglia, visto che furono 650.000 i nostri ragazzi a venire sbranati in quelle trincee. testimonianze che riaffiorano ancora oggi. Io ho trovato in un cassetto qualche tempo fa alcune foto che sono di mio padre. Era un ragazzino quando è entrato in guerra, perché era di quelli del 98. Una lettera testamento che questo mio zio scrisse dal fronte quando era in trincea sul Lisonzo. Ma le derive della memoria impongono proprio oggi, a 100 anni da quel conflitto, una nuova e diversa lettura, come suggerisce Marco Albino Ferrari, scrittore e giornalista. C'è una memoria che deriva da una lettura della storia, che spesso però è un po' ancora da rivedere, perché noi facciamo una sorta di celebrazione oggi della Grande Guerra. Limitiamoci a una consapevolezza, uno sguardo consapevole di quello che è stata questa pagina terribile della nostra storia, senza celebrare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordo due cose, che sono raccolte belle storie di sport e di grande guerra dal nostro Dario Ricci in un libro scritto insieme a Daniele Nardi che si intitola La migliore gioventù. E la seconda cosa che vi ricordo è che domenica Radio 24 dedicherà un Radio Day all'entrata, ai 100 anni dall'entrata dell'Italia nella Grande Guerra. Traffico.